Radio 24 Reportage. Egitto, primavera ultra, di Giampaolo Musumeci. È in corso una nuova rivoluzione in Egitto. Non è quella di Tahrir e nemmeno una dei suoi lunghi strascichi. Non è uno dei tasselli della lunga e ancora non conclusa primavera araba. È una rivoluzione diversa, che parte da un campo diverso, dal campo di calcio e dagli spalti degli stadi. A Port Said, il 1 febbraio scorso, il calcio egiziano ha vissuto la pagina più drammatica della sua storia. 74 morti e decine di feriti in seguito agli scontri tra due tifoserie di El Ahly e Al Masri. Un'ecatombe, una violenza inaudita. Giovani strozzati, picchiati a morte, gettati dagli spalti, calpestati. Un evento che ha cambiato e sta cambiando il calcio egiziano e non solo. Quello che sembra chiaro è che si sia trattato di un piano preordinato, da chi ancora non si sa. Una delle tesi più accreditate? Una mossa della giunta militare per dividere, per creare caos e panico e giustificare una propria presenza sul terreno. Delinquenti infiltrati insieme agli ultras, porte dello stadio chiuse e luci improvvisamente spente, assenza di intervento e controllo da parte della polizia. C'erano ultras allo stadio di Port Said, ma anche tanti semplici tifosi, alcuni giovanissimi. Alla commemorazione di uno dei ragazzi uccisi, dove i cori erano contro la polizia soprattutto, un ultras di El Ahly, 18enne, esprime così il suo dolore. Hanno ucciso in modo crudele i miei amici, racconta. Non so perché lo hanno fatto. Ci odiavano, lo sapevamo, ma non a questo livello. Hanno chiuso le porte, la polizia li ha fatti entrare, li ha fatti uccidere e gettare i miei amici giù dagli spalti. Io non riesco a spiegarmi tutto questo. Prova a mettere le cose in fila Khalid Bawumi, un giornalista e opinionista sportivo egiziano molto noto. Allora, che cosa è cambiato nel movimento ultras dopo e durante la rivoluzione di Piazza Tahrir? Dopo la rivoluzione io vedo ultras molto organizzato, ultras molto forti. Abbiamo due cose qui in Egitto. La prima cosa è che i fratelli musulmani sono molto più organizzati tutti i partiti quello che c'è in Egitto. L'oltre, secondo me. Il secondo, quella che sono organizzato molto, molto come fratelli musulmani. Bro, questo occupa la politica, con l'altro occupa lo sport. L'altro è diventato fortissimo, è diventato uno dei primi nella rivoluzione di Tahrir, è diventato durissimo anche nei discorsi dell'ambasciata israeliana 5-6-7 mesi fa, è diventato fortissimo anche nelle organizzazioni nella piazza di Tahrir, per così l'oltre è diventato una cosa forte per l'Egitto nei discorsi della rivoluzione. E dopo la tragedia di Port Said, che cosa sta accadendo al movimento ultras? L'Egitto sta cambiando, ora la stampa egiziana, anche i politici egiziani stanno capendo che c'è un gruppo, si chiama Ultras, non solo gli Ahli, tutte le città egiziane sono molto organizzati, sono fortissimi, sono molto bravi anche nei discorsi della gioventù, quella che non c'è in Egitto, quella che non occupa in Egitto. Allora praticamente la politica sanno già che l'Ultras è fortissimo, sanno già che devono capire che questa volta il discorso della disgrazia di Port Said cambierà l'Egitto per tante cose, cambierà perché cominciano a capire che l'Ultras non finirà, diventerà più grande, anzi più forte. La più bella cosa è che io vedo Ultras molto unito ora. Tutti sono ingruppati, insieme. Questa è quella che lo volevano non farlo. Invece, grazie a Dio, dopo la disgrazia, quella che è successa a Porta Said, è diventato un gruppo unico. Il gruppo si chiama Ultras per l'Egitto. Secondo me diventerà ancora più forte. Gli ultras egiziani, nati nel 2005, hanno da sempre un conto aperto con la polizia, colpevole di usare la mano troppo pesante. Sono un movimento organizzatissimo, con ferre regole anche di comunicazione. Non parla nessuno, se non i pochissimi leader autorizzati alle relazioni con i media. Sono giovani come movimento e si aspirano agli ultras italiani e agli hooligans inglesi nel loro senso di appartenenza e fratellanza fra i membri, nella creazione di cori, simboli, nell'inventare nomi e slogan. Le regole per entrare sono semplici: correttezza, lealtà e massima dedizione alla squadra al 100%. Per che cosa lottano? Per la loro squadra, su tutto e tutti, ma una cosa è certa, oggi in Egitto danno voce ai giovani e lottano contro l'ingiustizia. Prima fra tutte, la strage di Port Said, su cui voglio si faccia luce. Yuri, uno dei capi ultras di El Ali che incontro al Cairo, racconta come, sì, la loro conoscenza delle tecniche e le tattiche sul campo abbia dato impulso alla piazza di Tahrir, ma come movimento ultras non vi è stata nessuna partecipazione alla rivoluzione, come invece molti media hanno scritto. È stata solo individuale, se c'è stata, come singoli, come egiziani. Conosciamo la polizia, ci racconta. Li conosciamo dai tempi dello stadio, quando si infiltravano tra noi sugli spalti. Sappiamo chi sono, per cui abbiamo dato forza ai rivoluzionari, certamente. La polizia, continua, ordisce piani contro di noi da tempo, fin dal tempo di Mubarak, ci arresta. Ora sono riusciti a uccidere 70 persone. Per cui, sì, la polizia è in parte un nostro nemico. Ma la nostra risposta è sempre una reazione a un uso ingiustificato e immotivato della forza contro di noi. Muovono tante persone, gli ultras del Cairo di El Ali, la più blasonata e prestigiosa squadra egiziana. I tifosi normali seguono il nocciolo duro degli ultras, come ricorda Khalid Bawumi. Ha ragione. Loro, il problema ora è che il politico ora stanno usando l'altras. Stanno usando la parola dell'altras, stanno usando la gioventù dell'altras per avere qualche voto, per avere anche un nome in Egitto che lui sta facendo la politica per la gioventù dell'altras. Invece l'altras non ha bisogno di nessun politico. In che modo la stanno strumentalizzando? Stanno aumentando, stanno parlando che siamo con voi, siamo dietro di voi, non lasciamo mai la disgrazia. Invece tutto questo è una bugia, perché loro guardano loro stessi, loro interesse basta. Invece l'altra guardano loro interesse al loro club. Io vedo la gente politica che stanno avvicinando loro per il loro interesse basta. Invece l'altra capisci, perché sono molto intelligenti, sono tutti laureati, le persone parlano bene nella politica, nello sport, in tutte le altre cose. C'è del ragazzi che hanno letto tanti libri, per cui sì, sono molto bravi. Allora io ho capito perfettamente che loro capiscano che questa gente di Bulica stanno parlando del loro interesse. Il militare o la giunta militare, secondo me, che stanno pensando ora come ora, anche stanno vedendo che l'oltras c'è tutto. C'è i salafiti, c'è i fratelli musulmani, c'è il copti, c'è i giovani, c'è gli anziani, c'è le donne, c'è tutto. Allora così sono un gruppo, una forza molto forte. Secondo me, se loro entrano nella politica diventano fortissimo. Invece il bello di loro è che loro non entrano nella politica. Però questa è una da me, come l'hai detto, una forza vera, per una forza che sta a fare pensando la giunta militare, non fare qualche disgrazia un'altra volta all'Egitto, o la polizia, o qualsiasi persona, o le indelinquenti, quelle che usano in tutte le parti. Per così io vedo questa forza bene per l'Egitto. Quella che attiva l'Ahli segue il gruppo dell'altra, guarda come fanno loro, sta seguendo perfettamente bene, vuole sapere cosa fanno loro. Allora sono 220.000 persone, diventano fra 2 anni, 3 anni sicuramente 500.000, 1 milione di persone, aumentano, perché la gioventù in Egitto, grazie a Dio, noi abbiamo una bella cosa, una vita in Italia, che abbiamo la gioventù, invece in Italia non c'è la gioventù. Per così io vedo la gioventù la forza nuova per l'Egitto, anche il discorso che sono tutti uniti, sta unendo ultimamente, poi anche sta diventando molto più famoso, molto più organizzato. Per così le vedo l'altra, diventerà una forza, ma aumenterà ancora di più, ma di più dopo questa disgrazia. Allora, dopo la primavera araba ci potrebbe essere una primavera altras? Penso di sì. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo.